9 in punto, la versione di Oscar. Allora, buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 1° di giugno, auguri a coloro che si chiamano Giustino. E prima di dare come sempre orecchie e voce all'Emilia colpita, anche oggi con avremo politico, avremo imprenditori, un inizio invece che si concentra su un'altra questione. All'indomani di un altro passo verso l'eurodanza, perché avete visto che la novità è che il governatore della Banca d'Italia e il presidente della BCE ieri hanno in realtà fatto fare essi il passo avanti alle proposte politiche italiane che mancano per coraggio in Europa, perché il combinato risposto è che Draghi e Ignazio Visco hanno chiesto che ci sia un intervento diretto europeo dell'SMM, dell'ESM, dell'FSF nelle banche, e si parla delle banche spagnole, perché da 3 giorni si è dimesso il governatore nella Spagna per il crack bancario che lì riguarda 7 casse di risparmio e che la Spagna propone con un metodo che non è coerente con le regole europee di ricapitalizzare, cioè dando titoli del debito pubblico. La BCE gli ha dovuto dire di no, ma il problema è rivolto ai tedeschi, per dire o si salvano le nostre banche o il contagio bancario dalla Grecia alla Spagna arriva all'Italia e accende l'Europa ancora prima del voto greco. E a questo il governatore della Banca d'Italia ha aggiunto la proposta di federalizzare una quota del debito pubblico uguale per tutti i paesi europei. Ripeto, proposte così dalla politica italiana e dal governo Monti non erano venute chiaramente ai tedeschi. E c'ha poi i banchieri centrali, c'è un'invasione di campo, ma entro poche settimane l'incendio potrebbe assumere proporzioni tali che poi ci chiederemo come mai tutto questo non ha sfociato in misure volte alla consapevolezza. Nel frattempo io vi leggo una nota del Frankfurter Allgemeine che paragona l'Italia a un paese che è nelle stesse condizioni dell'Italia, a giudizio del Frankfurter Allgemeine. Che cosa hanno Italia e Guatemala in comune? Le rendite sui titoli di Stato. Questa era la Frankfurter Allgemeine di ieri. Al di là della preponderanza di cattolici o meno della frammentazione del sistema politico, diceva la FAZ, tutti e 2 i paesi hanno pagato fino a mercoledì per i loro nuovi titoli di Stato decennale tassi al 5,8%. Per l'Italia, una delle nazioni industrializzate del mondo, paese con un grande benessere, questo giudizio dei mercati finanziari è poco lusinghiero, perché il Guatemala non è ancora del tutto fuori dalla guerra civile, è tormentato da uragani, cartelli della droga, vive di export di caffè, banane e zucchero, poco più, un po' di turismo. Nessun altro paese del G8 viene valutato dai mercati, neppure approssimativamente a livello di una repubblica delle banane. E naturalmente noi siamo esattamente in la condizione, questo per rendervi chiaro come un giornale equilibratissimo, di cui molto spesso invito il corrispondente in Italia, Tobias Piller, che è anche il capo della stampa estera in Italia, correttamente giudica la posizione comparata dell'Italia. Io dico correttamente, è inutile che vi inalberate a casa dicendo l'Italia non è il Guatemala. Ovvio, l'Italia non è il Guatemala, non ha la sua manifattura, pensiamo molto di più, ma la politica vi ha messo in condizione di essere trattati come il Guatemala, e la politica per di più tace. Viva almeno i banchieri centrali che parlano. Anzi, la politica vi fa di più, se posso essere chiaro, perché vi avevo preannunciato ieri la lettura di una lettera sulla quale poi apriamo i telefoni. È una lettera che l'Agenzia delle Entrate sta mandando a moltissime migliaia di contribuenti italiani, ed è una lettera che per una volta mi fa riflettere, perché io abitualmente, lo sapete, difendo l'Agenzia delle Entrate e punto il dito invece contro lo Stato, contro chi ha costruito questo ordinamento, cioè la politica, il legislatore. Non me la prendo con gli esecutori, anzi riconosco a Tilio Befera e alla sua squadra sempre di essere efficaci, ci danno un da fare matto per ottenere l'obiettivo che la politica gli ha assegnato, cioè quello di prendere dove si può, prendere tutto il giusto stabilito dalla politica. Io non sono d'accordo che sia giusto, ma non è stabilito da loro. Allora, migliaia di contribuenti stanno ricevendo questa lettera. Ve la leggo. Gentile contribuente, desideriamo offrirle alcuni elementi di valutazione relativi ai redditi dichiarati nel 2011. Poi c'è una riga sottolineata, 2 righe sottolineate in negretto. Questa comunicazione ha finalità esclusivamente informative e pertanto non è necessario da parte sua alcuna risposta. Continua la lettera. Dal confronto dei dati indicati nella sua dichiarazione dei redditi 2011 con le informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate risultano alcune spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati. La natura di tali spese, ad esempio acquisto di autovetture, acquisto di imbarcazioni da diporto, spese per lavoro domestico, è indicata nel prospetto allegato, e c'è un prospetto allegato dove praticamente per tutti sono barrate delle caselle acquisto fabbricato, contributi previdenziali. La natura di tali spese, appunto, è indicata nel prospetto allegato. Continua la lettera. Per tutelare la sua riservatezza, come sono delicati, nel prospetto non è precisato l'ammontare delle spese rilevate dalle banche dati dell'agenzia, nel presupposto che le siano certamente note. Nel caso in cui rilevi errori o incongruenze nel prospetto allegato, può comunque segnalarli inviando una mail all'indirizzo dc.cc.comsinta@agenziadelleentrate.it o rivolgersi ai centri di assistenza multicanale telefonando al numero eccetera eccetera. Se invece non rileva errori o incongruenze, la invitiamo a valutare la compatibilità del reddito complessivo dichiarato con le spese indicate nel prospetto e con le altre spese di diversa natura da lei sostenute, incluse quelle per il sostentamento suo e quello di eventuali familiari a carico. Infatti, in sede di controllo della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate effettuerà un'analoga valutazione e in presenza di spese di ammontare complessivo significativamente superiore al reddito dichiarato procederà ai necessari approfondimenti. In particolare, le potrà essere chiesto di dimostrare che la quota di spese eccedente per almeno un quinto il reddito complessivo dichiarato sia stata finanziata con redditi davvero diversi da quelli posseduti del 2010 o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Le ricordiamo che nel caso in cui non fosse in grado di dimostrare la compatibilità delle spese sostenute con il reddito dichiarato, l'Agenzia delle Entrate potrà procedere all'accertamento sintetico del reddito complessivo. Le suggeriamo quindi di considerare con attenzione questa comunicazione e l'opportunità di ravvedimento offerte dalla normativa fiscale. La invitiamo a considerare il contenuto di questa comunicazione anche ai fini della dichiarazione per l'anno in corso, valutando la compatibilità delle spese effettuate lo scorso anno con il reddito complessivo da dichiarare. Allora, in sintesi, questa lettera è mandata a pacchi di migliaia di contribuenti prima di un controllo su ciascuno di essi. Il modulo, come è evidente a chiunque, è uguale e quindi è semplicemente per dire: non dite che non vi abbiamo avvisato, mettetevi una mano sulla coscienza e venite al rovedimento operoso pagando, altrimenti ci pensiamo noi. Io ho un'opinione su come considerare questa lettera. Dopo che ve l'ho letta, adesso passiamo a dare voce all'Emilia e nella parte successiva della trasmissione, perché è prioritario dare ovviamente la voce a chi è colpito dal terremoto, nella parte successiva della trasmissione vediamo di giudicare con i vostri interventi e le vostre opinioni questo avviso. È un avviso bonario? È lo Stato paterno che ci mette sulla buona strada e ci prende con le buone? È uno Stato semplicemente padrone che ci avvisa che può beccarci quando vuole con tutta la congerie di dati che ha e che benignamente comunque da buon padrone verso i suoi schiavi e dice: guarda come sono buono, ti consento prima di rivederti. Oppure è lo Stato padrino che dice con la canna di una pistola puntata alla tempia: pensaci bene a quello che deve fare. Ecco, diciamo che tra padrone e padrino sarò curioso di sapere come la pensate voi. Ma adesso, chiusa di questa finestra, ci torniamo con le vostre telefonate. Sentiamo l'assessore alle attività produttive della regione Emilia-Romagna, Giancarlo Muzzarelli, che è collegato con noi. Io di questo molto lo ringrazio. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Allora, ci può in linguaggio sintetico e preciso, pensando a chi ci ascolta da quelle parti, il messaggio loro rivolto sulle attività prioritarie che in quanto assessore alle attività produttive della regione Emilia-Romagna nei prossimi giorni avete messo in piedi per l'impresa, per il lavoro dipendente? Allora, intanto stiamo lavorando sull'area del terremoto, perché per noi quella è una priorità. E la priorità di quell'area è proprio il lavoro, perché dobbiamo far ripartire le imprese. In generale, come Emilia Romagna, stiamo approvando il piano triennale delle attività produttive e della ricerca industriale, perché per noi l'innovazione, la ricerca, le nuove tecnologie con anima green sono il percorso per stare nel mondo. L'export è il nostro punto di riferimento costante, come lei sa e come i radioascoltatori sanno. l'Emilia Romagna è uno dei punti di riferimento più importanti per l'export del nostro paese. E noi oggi dobbiamo stare lì perché il mondo ci vuole ma non ci aspetta, e noi abbiamo bisogno di stare nel mondo. Quindi c'è una dinamica di relazione attiva con le imprese in questa regione, dove abbiamo 430.000 imprese, tutte medio-piccole, per rafforzare l'asse che ho detto e soprattutto per mettere in rete le imprese, perché abbiamo bisogno di nuove imprese con il fisico, di nuove imprese che possono competere nel mondo. È chiaro che il nostro sguardo oggi è di sofferenza per le aree terremotate e per quelle imprese e quei lavoratori, quindi abbiamo bisogno oggi di concentrare gli sforzi per far capire a quelle imprese che debbono rimanere lì, che insieme dobbiamo ricostruire, che insieme dobbiamo rialzarci e rimetterci a correre, perché diversamente sarà dura per l'Emilia Romagna, ma sarà dura anche per l'Italia. Quindi io credo che questo sia il senso profondo del lavoro che stiamo cercando di portare a compimento, un percorso costante di collaborazione, di cooperazione, che deve vedere le istituzioni a servizio e insieme alle imprese, insieme al mondo del lavoro, per leggere ogni giorno le trasformazioni che il mondo economico ha e soprattutto cercare di stare nel mondo. Questo è il lavoro che noi vogliamo portare a compimento. Io sono rientrato anche da una missione in Brasile che il governo ha fatto, mi sono reso conto che il messaggio che ho detto, l'Italia, il Made in Italy è amato, ma è chiaro che il mondo ci vuole ma non ci aspetta, quindi dobbiamo dare un'accelerazione al nostro modo di vedere le cose, al nostro modo di agire, per essere una vera squadra per competere nel mondo. Assessore, una delle polemiche delle prime ore successive che hanno un po' intorbidato ma poi respinte dalla convergenza di chi rappresenta il lavoro e le imprese nelle aree colpite dal sisma, però del sistema mediatico nazionale, è stata quella sulle responsabilità da accertare, ma comunque evidenti secondo alcuni, di ciò che era capitato ai capannoni colpiti, chi sì, chi no, i criteri sismici, non sismici, la mappa sismica, ma insomma l'impresa risparmia sulla sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, adesso nel frattempo noi abbiamo informato nei giorni successivi i nostri ascoltatori di come davvero le normative e i diversi livelli di cogenza normative, dal 2003 la nuova mappa, esatto, poi che cosa succede dopo il 2009, cioè l'Abruzzo e così via. Allora, dovessimo valutare adesso retrospettivamente, di fronte al fatto che è chiaro a tutti quelli che non vogliono inventarsi chiacchiere, che la regione ha fatto quello che doveva, il succedersi delle diverse aree sismiche non obbliga a rimettere mano a tutto il patrimonio immobiliare preesistente. Oh, appunto. Bravo. Allora, come diavolo facciamo d'ora in poi, secondo lei, a mettere insieme quello che abbiamo capito con anche l'impossibilità di ributtare tutto per terra e di ricominciare da capo, perché significa praticamente, sia per il residenziale ma soprattutto per le imprese che devono stare sul mercato, è una cosa irreale. Come si fa, secondo lei, che ha la responsabilità in questo momento? E ripeto, noi ci sforziamo di evitare polemiche inutili, però una volta che abbiamo capito che dovremmo ricostruire tutto o comunque rimettere a norma tutto, un bel po' di capannoni e di fabbriche oltre che di case, e poi come si fa a farlo in realtà? Ma guarda, intanto lei ha ragione, lì una parte del sistema industriale aveva costruito tutto in anni passati e quindi oggi dobbiamo ripartire dalle norme attuali, dalle classificazioni e dalle leggi che la regione ha fatto insieme in raccordo con il livello nazionale. Dopodiché dobbiamo fare uno sforzo aggiuntivo che è legato alla dinamica di rapporto con le imprese. Oggi credo che tutti, lavoratori di imprese, abbiano capito che occorrono impianti industriali ancora più sicuri. È per primo l'industriale oggi, l'imprenditore, che ha a cuore la propria impresa. Sono morti lavoratori, sono morti imprenditori, è morto un parroco, cioè è morto un pezzo della comunità. Noi oggi insieme agli imprenditori stiamo lavorando per fare la verifica di tutti i capannoni, di tutte le aree industriali, e ovviamente stiamo cercando di operare per rafforzare ancora di più le sicurezze, guardando oltre le norme, proprio perché in quella condizione tutti devono ritrovare serenità, serenità per chi ha l'impresa, serenità per chi entra in quell'impresa e va a svolgere un ruolo proattivo per la crescita di quell'impresa con un lavoro di qualità. Assessore, quindi, sì, prego, si è collegato con noi per pochissimi minuti, perché poi lascio entrambi liberi, ma il direttore del Confindustria di Modena, Giovanni Messori, io lo ringrazio e le chiedo di approfittare direttamente di avere con noi collegato ancora per qualche minuto l'assessore alle attività produttive della Regione Emilia Romagna, Muzzarelli. Messori, a oggi, quindi fatte un po' le prime verifiche, è sedimentato purtroppo il dolore che non può sedimentarsi, ma bisogna andare avanti per le vittime che ci sono state, per gli operai, per gli imprenditori, per tutti coloro che sono stati fino a questo momento vittime. Ma in realtà dovesse adesso dire le priorità che avete recensito e girarle all'assessore che è collegato con noi, che cosa direbbe, Messori? Ho sentito, intanto saluto Giancarlo che è un amico, ho sentito quello che ha detto, lo condivido in pieno. Noi abbiamo la necessità di ripartire, ma il primo concetto da salvaguardare è quello della sicurezza. Qui sono morti, lo ricordava lui, imprenditori, operai, nessuno ha costruito in anni passati per rimanerci sotto. I fatti dimostrano che dovremmo prestare più attenzione ancora. Allora adesso servono, so che già uno sforzo importante è stato fatto ieri, più squadre della protezione civile per andare a verificare se ci sono dei capannoni agibili, come dobbiamo mettere in sicurezza quelli che sono caduti, come possiamo ripartire per le riparazioni. C'è tutto un problema, dei problemi tecnici, delle regole che devono essere conosciute da parte di tutti, perché nessuno poi abbia a campare scuse o quant'altro. Messori, voi proprio oggi pomeriggio, un po' con questo spirito, organizzate una specie di incontro per consentire a tutte le imprese, sì, di capire un po' quali sono le questioni di sicurezza da affrontare, sì, perché ho letto che in un piazzale a Medolla alle 16.30... Noi abbiamo una sede a Medolla che è stata lesionata e poi la paura sa... fa 90, quindi stiamo volentieri all'aperto. Ieri la Protezione Civile, che è molto collaborativa, ha fatto questo incontro con la Confindustria di Ferrara. Oggi sono a Modena, abbiamo bisogno di sentire dalla loro voce istruzioni precise come ci dobbiamo muovere, in modo che non si perda tempo con carte inutili, ma si faccia il possibile per la messa in sicurezza. Qui c'è un'etica del lavoro vero, e nessuno vuole far entrare dipendenti in zone pericolose, nessuno vuole forzare nessuno, dobbiamo essere sicuri di quello che facciamo. Assessore Muzzarelli, sì. Noi da una parte abbiamo mail o segnalazioni telefoniche di imprese che ci dicono: guardate che i comuni qua colpiti non ce l'hanno i tecnici per fare tutti gli accertamenti necessari per farci ripartire il più presto possibile in sicurezza e senza far rischiare niente di improprio a nessuno. E da questo punto di vista alcuni ci dicono: ma è possibile, secondo voi, che tra regioni, comuni e protezione civile si aprano a delle verifiche fatte da professionisti anche esterni all'amministrazione? Questo è un problema delicato, perché tecnico, perché ovvio che poi è la protezione civile, lì ci sono degli standard comuni, quindi non so se si possa fare. Le giro la domanda. Allora, intanto da oggi ci sono 70 squadre che stanno operando, e questo è un primo dato, e stanno dando le prime risposte importanti, perché come lei sa, con il secondo terremoto si è dovuto riazzerare tutto il lavoro che era stato fatto nella prima fase, certo, quindi già tutti i controlli della prima fase, quindi bisogna ripartire, quindi è già in atto la macchina operativa. Oggi pomeriggio ci sarà l'incontro a Medolla, io sarò a Medolla insieme a loro, proprio perché abbiamo bisogno di dare anche il senso di squadra, oltre che l'operatività tecnico-scientifica di questo momento delicato, perché le norme faranno la differenza nell'azione, e le norme dovranno essere di garanzia per le imprese e i lavoratori, ovviamente, e quindi per la qualità degli stabilimenti. Noi abbiamo già organizzato con la Protezione Civile, in uno stretto raccordo tra il commissario Errani e il responsabile Gabrielli, un percorso anche di valorizzazione di chi ha fatto, dei professionisti che nel tempo hanno fatto corsi per la sismica, perché abbiamo bisogno di professionalità. Noi non possiamo più permetterci che ci siano delle crepe nel percorso di verifica. Noi abbiamo bisogno di professionisti con la P maiuscola che consentano alle imprese di dire: certifico, stai tranquillo perché quel capannone sta su. Quindi è un problema vero di regole, di comportamenti e di azioni. Noi tra l'altro col Presidente Errani anche ieri a Roma stiamo continuando a verificare quello che è possibile, perché occorre rapidamente trovare le risorse per quote di indennizzi, ma anche mutui a tasso zero per dare una possibilità alle imprese di ripartire con gli investimenti. Qui chi conosce l'Emilia Romagna sa che il valore del lavoro è un valore profondo nella comunità regionale. Gli imprenditori e i lavoratori oggi sono insieme per un unico obiettivo, quello di ritrovare capannoni sicuri per continuare a produrre, perché qui c'è una produzione molto alta che sta nel mondo e che deve continuare a stare nel mondo. E questo sarà il segno indelebile del sostegno che noi continueremo a darvi ogni giorno, cercando di informare, di evitare le polemiche e di dare una mano, come si può fare, ma con l'informazione responsabile, ecco, anche questo si può fare, a questo spirito di convergenza che è la grande forza, la grande tradizione, uno dei punti più avanzati dell'economia, ma anche della coesione della società che caratterizza questo pezzo di Emilia, questo pezzo d'Italia. Quindi grazie all'assessore Giancarlo Mozzarella, buon lavoro, e grazie a Giovanni Messori, direttore Confindustria di Modena, e buon lavoro anche a lui. Io ricordo a tutti 300 scosse in due giorni, 31 anche stanotte, Corrado Clini, il ministro dell'ambiente, ci ha detto, lo trovate sui giornali di oggi un po' dovunque, 15 anni per la messa in sicurezza di un paese, se ci mettiamo ventre a terra a lavorare sul patrimonio immobiliare purtroppo che è vecchio, non è in linea con i criteri antisismici, né quelli riaggiornati né quelli precedenti, altrimenti in questa Italia che balla, non solo sulla scena internazionale, perché la Frankfurter Allgemeine ci paragona al Guatemala, ma in quest'Italia che balla, perché balla nelle viscere della terra, ci saranno nuove lutti, nuovi colpi alla nostra economia. Il 7 giugno Napolitano sarà ospite nelle zone del sisma per verificare di persona. Io mi auguro lavoro prima, visite di Stato dopo, visto che qualcuno non voleva fare la parata, non facciamo parate, ma nemmeno quelle, insomma, del Capo dello Stato, sia pur simbolo dell'unità nazionale. Ora in pubblicità e dopo l'interrogativo torna, Agenzia delle Entrate, Stato padre, Stato padrone o Stato padrino? Eccoci tornati qua, ancora l'ultima su terremoto, perché mi avevano pregato di informarvi che in questo fine settimana, il 3 giugno 2012, a Finale Ligure Borgo, c'è una manifestazione che c'è ogni anno ne diamo notizia, e questo è il Festival degli Inquieti. Ogni anno viene premiato intorno al tema, a questo tema dell'inquietudine, il Circolo degli Inquieti di Savona premia l'inquieto dell'anno, e quest'anno appunto la decisione era quello di darlo agli abitanti dell'Aquila. E si è deciso al volo, per così dire, di finalizzare anche una parte di questo premio, oltre che agli abitanti dell'Aquila, come inquieti per definizione, ovviamente anche alle vittime del sismo, che sono inquieti e come. La particolarità è che insieme agli abitanti dell'Aquila il premio poi è attribuito, viene consegnato questo domenica 3 giugno a Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, ingonnevolmente quieto, e di cui, insomma, tra noi giornalisti si dice, dandoci un po' di gomito, che come la banda Nagel di Mediobanca fa saltare la testa per il sinotto, per questo consiglio straordinario di amministrazione dei generali, allo stesso modo vorrebbe anche levargli il Corriere della Sera per mandarlo presidente della RAI. Quindi, come presidente degli inquieti dell'anno, Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, però gli abitanti dell'Aquila e soprattutto anche le vittime del sisma. Torniamo alla lettera di cui all'inizio vi ho dato lettura, questa lettera che dice: pensaci bene, caro contribuente, perché noi, per riservatezza, in realtà perché non hanno compiuto alcun accertamento analitico ancora, quindi tanto spesa pubblica buttata all'aria, comunque per riservatezza non ti diciamo che cosa non ci risulta in linea tra quello che ci hai dichiarato, le tue sei spese sostenute, ma pensaci bene, perché se ci pensi bene per i fatti tuoi e vieni qua a un bel ravvedimento operoso, ci mettiamo d'accordo, altrimenti noi procediamo a complicarti la vita con un po' di defoliante di napalm, come facevano i B-52 sulle foreste del Vietnam, caro contribuente. E la mia domanda è: Stato padre, che benignamente vi avvisa, Stato padrone, che dice guarda ti becco comunque, pensaci, o Stato padrino, che vi minaccia? Ecco, questa è, lo dico apertamente, non voglio dare la mia opinione. Sentiamo intanto l'opinione del un'altra persona che sentiamo spesso su questi temi, abbiamo imparato ad apprezzarne la dirittura e la rapidità di risposta, è Enrico Zanetti, che è direttore di eutecne.info, è un giornale online che trovate ogni giorno aggiornato con i temi della professione e della legislazione per i dottori commercialisti. Allora, Enrico Zanetti, dal suo punto di vista, dal punto di vista di chi legge Eutecne, di chi fa vita associazionistica all'interno dei commercialisti, questa lettera che sta complicando ulteriormente la vita, non bisognosa di ulteriori complicazioni vista la mole di adempimenti dei commercialisti italiani e dei loro clienti, che cos'è? Che cos'è? Lo stato padre, lo stato padrone, lo stato padrino, oppure niente di tutto questo, è un adempimento normale, eccetera? Ma diciamo inevitabilmente un pochino un mix delle tre cose. A livello di adempimenti nell'immediato non se ne devono compiere, nel senso che anche la lettera specifica in modo molto chiaro che non è necessario alcun tipo di risposta da parte dei contribuenti. No, ma tutti coloro che penseranno però, visto l'allegato, che in realtà c'è già stato un accertamento, si precipiteranno a fare gli interpelli o scritti o al numero di telefono? Certo, infatti proprio oggi su eutecne.info Luigi Magistro, che è il direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, precisa proprio questo e sottolinea come sicuramente chi ritiene di avere delle argomentazioni valide da addurre potrà farlo, ma non c'è nessuna fretta, proprio perché non essendo un atto che determina dei tempi di risposta obbligatori o quant'altro, ci sarà tutto il tempo per farlo eventualmente più avanti. Ciò detto, è chiaro che comunque una lettera di questo genere può determinare varie tipologie di reazioni. C'è chi risulta direttamente inferocito e questo è probabilmente un tipo di reazione che sarebbe opportuno stemperare, anche perché il clima è già sufficientemente surriscaldato. C'è chi è sinceramente preoccupato, anche se tutto sommato si ritiene di essere un contribuente più che onesto, e questa mi sembra invece una reazione comprensibile, perché purtroppo nei mesi passati, direi che oggi finalmente stiamo riuscendo ad arrivare verso una buona sintesi, ma nei mesi passati c'è stato un po' di giacobinismo fiscale, bisogna dirlo, e negli stati in cui lo stesso fisco si è fatto vanto di voler mettere una sana paura agli evasori, è inevitabile che poi chiunque riceva una lettera da quel fisco, fosse anche il più onesto dei cittadini, vada un pochino in paranoia. Questo lo si deve accettare nella misura in cui si decide di alzare i toni, ma mi sembra che per fortuna... Anche perché noi abbiamo letto dell'aumento degli accertamenti con connessi aumenti degli introiti, quindi abbiamo prove ufficiali che l'amministrazione pianifica e progetta in vista di una quantificazione ex ante dei suoi obiettivi di raccolta, per così dire. Quindi ci sono delle cose che, per uno che ha l'idea che il rapporto col contribuente non debba essere preventivamente pesato su un aumento del budget, perché non stiamo parlando di questo, qualche motivo per arrabbiarsi forse c'è, ma io, come vede, ho raccolto, ispirandomi alla sua olimpico equilibrio, perché altrimenti rischiamo di esagerare e di passare dalla parte del torto, facendoci dire che vogliamo alimentare ovviamente... No, ma essere seccati ci sta tutto. L'importante poi è che in questa fase... Allora resti lì e mi dia una mano, vediamo che dicono gli ascoltatori. Tommaso da Firenze, prego, cominci lei. Che ne pensa di questa lettera? Sì, buongiorno. Questa lettera ovviamente è di tono padrino, non c'è dubbio. Il caso è abbastanza singolare. Mi si chiede come mai ho portato in detrazione alcune spese per ristrutturare una casa, come faccio a giustificarle quando io alla fine del 2005, essendo deceduto mio padre, ho ricevuto in eredità quello che era, ma siccome non era necessario dichiararlo a quel tempo, io risponderò che grazie a mio padre ho potuto in parte ristrutturare la casa. Tenete presente che le somme di cui si parla sono al massimo 8.000 euro l'anno di detrazione. Va bene, attento Tommaso, che ti diranno che non è come dici, ma comunque fai il tuo. Carlo da Brescia invece, come la pensa? Complimenti per la trasmissione. No, a me è arrivata questa lettera qua e appunto diceva che entro 30 giorni dovevo portare tutta la documentazione che loro avevano già in mano. Io avevo fatto una detrazione per un montascale, perché il mio bambino è disabile, e connessa a tutte le ricevute delle farmacie, perché giustamente lui prende medicine che non passa la mutua, vabbè, devo pagarle, e era abbastanza tosta, diciamo, le detrazioni fatte. E io sono andato, mi sono perso mezza giornata, ho fatto tutte le mie belle fotocopie e sono andato all'Agenzia delle Entrate, e ho consegnato il tutto e mi hanno detto ha fatto bene, adesso noi facciamo i nostri confronti. E vabbè, comunque l'avevate già, non so che cosa. Eh sì, perché c'è qualcosa che non va nel contesto. Attento genere. Carlo, che tu hai ricevuto però un accertamento e una cartella, è una cosa diversa da questa che sta arrivando ai contribuenti, che non è un accertamento, non è una cartella, è semplicemente un invito a dire state attenti che le vostre, il reddito dichiarato non è in regola con gli elementi che abbiamo nell'agenzia bancaria sulle vostre spese. Marco da Livorno, prego Marco. Io condivido molto quello che ha detto Rico Zanetti di Eutec, cioè il clima è abbastanza teso e quindi credo che sia necessario in questo momento ristabilire un attimino il giusto equilibrio tra rapporto tra fisco e contribuente. Questo tipo di lettere in effetti non lasciano invece molto spazio al necessario rasserenamento del clima. Sembra quasi, rientra in un'attività di compliance, quindi sembra quasi una lettera di stato paterno, però in effetti colui che la riceve la vede un pochino da stato padrone, la legge come stato padrone. Io però volevo sottolineare un attimino il discorso del suggerimento nella parte finale della lettera, dove viene chiesto la valutazione dell'opportunità del ravvedimento. Sì. Ecco, purtroppo i risultati del calcolo del software ad oggi non sono ancora conosciuti. Non capisco come può essere fatto un ravvedimento se non sono in grado di calcolare, di saperne ex ante dove mi porta, è vero o no? Effettivamente questo calcolo è stato annunciato più volte, la disposizione di questo software ai contribuenti è annunciato più volte, addirittura teniamo presente che questo... Marco, ci hai fatto capire che non si sa se padre, padrone o padrino, intanto è mentitore, e su questo io ti faccio un applauso, strada, informazioni stradali. Allora ripartono i DORS, ma ripartono anche il flusso di telefonate intorno alla domanda se questa lettera dell'Agenzia delle Entrate in cui vi dice venite a ravvedervi perché noi ne sappiamo, su di voi non ve lo diciamo, ma attenti che sappiamo tutto di voi, se sia una cosa paterna o se sia qualcos'altro. Intanto abbiamo scoperto che mentono comunque, perché per il ravvedimento operoso ci hanno promesso da tempo un decreto che ci fa capire il software dove ci potrebbe portare al ravvedimento operoso, ma naturalmente se lo tengono per sé. Carmelo da Roma, come l'hai presa questa lettera, se l'hai ricevuta, come la valuti? Prego Carmelo. Buongiorno, io tra l'altro sono avvocato tributarista, quindi hanno colpito giustamente nella parte tecnica. Nel frangente di questa lettera noi dobbiamo pensare un fatto importante. L'Agenzia delle Entrate, come tutti gli enti, per andare a fare un accertamento ha bisogno di manifestare l'onere della prova. Deve dimostrare da sé che io sono un contribuente che ho evaso. Con questa lettera bonaria tenta, esibendo l'inversione. Chiaramente la documentazione, l'inversione dell'onere della prova. Ma da sempre una specializzazione dello Stato ladro. Questo è, infatti tu dici, secondo l'ordinamento, ricordiamo a tutti che bisogna attestarsi come sulla linea del Piave, l'onere della prova sta a loro, non a noi. Ma poi tra l'altro la minaccia finale dell'accertamento sintetico significa andare a fare un accertamento basato su numeri illogici, su presunzioni dell'Agenzia delle Entrate, e quindi genererà sicuramente un contenzioso tributario non indifferente. È come se ce ne fosse bisogno. Esatto, questo tra l'altro, esatto, ma questo qua è la bonarietà di questa lettera che tende a prendere comunque in giro il contribuente. Io grazie Carmelo, opinione chiara. Giorgio dalla provincia di Genova. Pronto? Prego Giorgio. Buongiorno, allora io ho ricevuto la lettera, complimenti a trasmissione, l'allegato dove dice le spese significative, sì, cita l'acquisto di un fabbricato che non è mai avvenuto. Esatto, ma è standard quell'allegato. È standard. Dopodiché mi meraviglia l'ignoranza dell'Agenzia delle Entrate, perché io nel 2009 ho già risposto ad un questionario dove mi si diceva che la mia capacità reddituale non era sufficiente e ho dimostrato ampiamente la mia capacità patrimoniale. Quindi non vedo perché mi si debba ancora perseguitare nel 2010 quando da poco ho dimostrato la mia capacità. Ma Giorgio, ma è evidente perché avanzano denari pubblici e quindi un po' di lettere buone non si negano a nessuno. Arianna da Verona invece, che ne pensa? Buongiorno, io sono un libero professionista della provincia di Verona, ho ricevuto anche io questa lettera, mi contestano alcune voci assurde, di cui una sono i contributi previdenziali che io pago sulla base della dichiarazione dei redditi. Quindi, cioè, mi contestano una cosa che per forza sono obbligata a pagare, perché in linea al caso io devo pagarla, e la pago sulla dichiarazione dei redditi. Che spesa non consona al mio reddito non riesco a capirlo, perché insomma, questo è quanto. Allora, mi pare di capire che per il momento la consultazione... Aspetti, Stefano D'Alessandria, ci abbiamo ancora. Come la pensa, sì, Stefano invece? Buongiorno, senti, io sono un commercialista, alcuni miei clienti hanno ricevuto questa lettera. La cosa strana è che sono tutti clienti ad alto reddito, perché sono tutti clienti che dichiarano un lordo su 100-150 mila euro. Beh, no, non è troppo strano, insomma, che lo Stato si rivolga a loro, ecco. Probabilmente per dire attaccaci qualcosa e porta a casa qualcosa. Beh, ma è ovvio che questo è l'obiettivo. In più i dati in questo famoso quadro con degli X sono assolutamente sbagliati, perché riportano statistiche che non sono assolutamente quelle reali. Problema grosso, e io non sono così tranquillo come il mio collega Zanetti, è che con chi parli? Con una mail, con un centralino, che ti dice qualcosa? No, in effetti c'è una firma sotto la lettera, come ovvio, cioè il direttore dell'agenzia, c'è una firma. Allora, chiedo a Stefano però, dal suo punto di vista, se organizzassimo una risposta di massa con il sostegno anche dell'Ordine dei Commercialisti di tipo esemplificativo simbolico, del tutto pacifica, nella quale, non lo so, decine di migliaia di contribuenti restituissero con un'inappuntabile formula giuridica di impressione all'ora della prova, ma anche un po', diciamo così, di ironico sberleffo, la paternalistica attenzione, nella migliore delle ipotesi, di questa lettera, sarebbe una cosa buona oppure no? Cioè, è il caso di iniziare anche a manifestare, nel pieno rispetto dell'Agenzia delle Entrate, di chi la guida, che ha una ricerca, diciamo, di risorse così esplicita, sparando nel mucchio, si risponde dicendo: sentite, ma tentate di fare il vostro invece di buttare all'aria tante lettere inutili. Che ne dice Enrico Zanetti? Ma sicuramente potrebbe anche essere un'iniziativa simbolica e molto evocativa. Io comunque sono d'accordo con gli ascoltatori che hanno evidenziato in particolar modo il fatto che non ci sono ancora gli strumenti completi in relazione a quel redditometro, che è lo strumento che fa da sfondo a queste lettere, e altrettanto anch'io trovo abbastanza peculiare che per ragioni di riservatezza queste lettere vengano inviate senza indicare nemmeno l'importo complessivo delle spese che l'agenzia afferma di avere nei propri archivi, perché sulla riservatezza abbiamo ben visto che l'Agenzia delle Entrate, quando si tratta invece di andare ad acquisire i dati dei contribuenti, non va molto per il sottile, quindi diciamo c'è un po' di due pesi e due misure. Il sospetto che fa inevitabilmente nascere, noi non possiamo sapere se è realmente così, però il sospetto che fa nascere questa scelta operativa di mandare queste lettere con una procedura ancora non completa e senza evidenziare gli importi realmente il loro possesso, ecco, il sospetto, o quantomeno il rischio, è quello di far percepire una situazione veramente da gioco, da bluff a poker. Cioè, da un lato c'è il contribuente che magari non dichiara tutti i propri redditi, adesso abbiamo anche l'amministrazione finanziaria che fa delle lettere in cui non dichiara i dati di cui è in possesso per muovergli delle contestazioni. Sembra una strategia della tensione in cui alla fine si vede quale dei due bluff. Ma no, attenzione Zanetti, non dica strategia della tensione, perché evoca implicitamente che ci sia un terrorista, e quindi no. Secondo me è la strategia del giocatore di poker che bluffa, come stava dicendo, il giocatore di poker che bluffa. Ma il problema è però che questo, che è un'immagine anche divertente pur nella grande drammaticità della situazione per chi riceve una lettera di questo tipo e va giustamente in ambasce, il problema è proprio questo, che si inserisce tutta questa situazione, esatto, in un contesto, perché le lettere, ricordiamolo, di questo tipo sono state spedite anche lo scorso maggio. Anche lo scorso maggio. Lo scorso maggio, esatto. La vena populistica era brava, esatto. E noi è questo che tentiamo di ribaltare. Io ringrazio anche Enrico Zanetti. Allora, io dico che lo Stato padre, siccome sono un individualista, personalista, sostenitore del diritto naturale che respinge le pretese dell'ordinamento positivo, lo Stato padre non mi interessa. Già ho faticato molto a fare i conti con il padre naturale nella vita. Lo Stato padrone, poi tento di convincere la gente che è un pessimo padrone, lo dimostra ogni esperienza comparata, oltre una certa soglia molto più bassa di quella del 50% del PIL intermediato, lo Stato padrone è un male. Lo Stato poi padrino va combattuto come si combatte la mafia, con la legge e, quando è necessario, anche con la determinazione della legge. Lunedì appuntamento a tutti, perché parleremo di un libro che è l'esatta manifestazione della necessità di leggerlo dopo questo tema fiscale. Il libro si chiama Sudditi ed è rivolto a voi tutti, perché aprirete gli occhi e tentiate dal basso di dire no allo Stato padrino. A lunedì.